benvenuto alle signore e signori che partecipano questa sera alla nostra iniziativa. La Biblioteca Provinciale Claudia Augusta organizza ogni settimana, nella serata di martedì dalle 17.30 in poi, un incontro con autori, con autrici, dei dibattiti, soprattutto di storia, di geopolitica e anche degli incontri che trattano argomenti di diverso tenore, ma soprattutto di ambiti anche diversi e sempre di interesse pubblico e di interesse anche per una migliore qualità della vita e anche per raggiungere degli obiettivi dell'Agenda 2030, che riguardano in questo caso anche la salute, la parità e la sconfitta, diciamo, di tutta una serie di aspetti che indeboliscono la crescita personale. E questa sera tocchiamo un argomento, direi, molto scottante e sempre purtroppo, ahimè, attuale, e che riguarda non forse solo le giovani e i giovani, ma anche persone di altre età. E abbiamo con noi l'autrice di questo libro che verrà presentato, Maria Rita Di Pasquale, e come vedete dal titolo qua nello sfondo, la musicoterapia e i disturbi del comportamento alimentare. Avremo la possibilità anche di vedere dei video, abbiamo qui il tecnico che ci manderà in onda i video, ma soprattutto abbiamo anche la presenza e la moderazione di Don Paul Renner, che ci accompagna in qualche occasione, che ci aiuta sempre a trasmettere, diciamo, i nostri contenuti destinati a un pubblico sempre più vasto, ci auguriamo. Ecco, intanto questa sera ringrazio tantissimo i nostri ospiti, ringrazio la signora, appunto, Maria Rita Di Pasquale con il suo libro, anzi Il cibo d'amore, e il sottotitolo La musicoterapia e i disturbi del comportamento alimentare, e ringrazio Don Paul Renner. Ricordo che questi incontri sono tutti registrati, per cui chi avesse la difficoltà di non partecipare in presenza può comunque poi riascoltarli dal podcast e dal nostro sito. Ne approfitto per segnalare le prossime due iniziative. Il giorno 5 novembre alle 17.30 avremo un incontro con Adel Jabbar relativamente al Vicino Oriente nello scacchiere geopolitico, considerazioni su storia e attualità, e poi il 6 novembre, quindi il giorno successivo, alle ore 17, avremo un incontro con il professor Dobrilla, che ci presenterà il suo nuovo libro, o meglio la nuova edizione di un libro che ha già presentato anni fa, ma che è stato integrato e aggiornato, C'è sempre da imparare. Bene, grazie, buona serata a tutti voi e buon lavoro e buona serata anche a voi. Grazie. Bene, grazie a chi c'è, peccato a chi non c'è, che si perde qualcosa, problema suo. E sono contento di quello che ha detto la direttrice, la cara Valeria Trevisan, che citando l'amico Giorgio Dobrilla, c'è sempre da imparare, no? E per questo sono qui, non in veste di esperto di musica o di musicoterapia, nemmeno, grazie a Dio, come esponente di un portatore di disturbi alimentari, perché grazie a Dio mangio un po' di tutto, quando capita, come capita, digerisco bene e quindi non ho questi problemi, però sono uno curioso, ho fame di sapere, pratico questa virtù che Tommaso d'Aquino definiva una delle principali, la curiositas, ma non la curiosità del gossip, che è una cosa penosa, la curiosità di saperne di più sulle cose. Quindi quando Maria Rita mi ha omaggiato questo suo libro, l'ho letto e devo dire, non che l'ho divorato, perché è un verbo da animali, l'ho gustato, l'ho centellinato, mi si sono aperti nuovi orizzonti. Ho imparato un sacco di cose che trasmetterò ad altre persone, che mi servono anche a indicare una via concreta per altre persone. Maria Rita Di Pasquale è prima di tutto musicista, quindi suonatrice di violino soprattutto, non so di che altri strumenti ancora? Sì, è qualche altro strumento nella mia attività, sì. Okay. E quindi è una praticante, e per noi religiosi è importante non essere solo credenti ma anche praticanti, no? Quindi parla di musica, facendo bella musica, deliziando le persone con la musica, e poi si è dedicata anche alla musicoterapia, prima apprendendola e poi applicandola. A questo ci arriveremo fra un pochettino. Io ho una domanda a bruciapelo per Maria Rita, ovvero sia: che significato ha la musica per gli esseri umani e la musica per essere umani? Sono due cose diverse, eh? Per gli esseri umani e per essere umani. Cos'è la musica? È un argomento molto vasto, perché sappiamo che la musica è qualcosa che esiste da sempre e quindi possiamo proprio andare all'origine del mondo, pensando alla musica, quando molte culture hanno fatto derivare proprio il mondo e la vita poi successivamente proprio da un suono. Quindi ci sono varie teorie, anche abbastanza moderne, tipo il Big Bang, ma anche dei riferimenti di altre culture, e tutte le culture antiche, in quasi tutte le culture antiche, si parla di un suono originario, cosa che la fisica moderna sta convalidando, soprattutto la parte della fisica quantistica, dove si è iniziato a studiare il fatto importantissimo che la materia non esiste in realtà. Quando si va nel infinitamente piccolo, si osserva che ogni cosa che noi pensiamo essere materiale in realtà è fatta di vibrazione, quindi in un certo senso di suono. Quindi l'intuizione degli antichi è stata un'intuizione molto profonda, e già Pitagora aveva teorizzato appunto un suono delle sfere, per chi ha un po' avuto modo di seguire, ecco, diciamo, queste scuole di pensiero di matematici e di filosofi che si sono occupati moltissimo di musica fin da sempre. Però la musica esisteva già nella preistoria ed è stata un'attività estremamente importante che si è trasmessa geneticamente. Infatti è arrivata fino ai nostri giorni, perché come anche altre arti, la musica permetteva un contatto con il divino, in un certo senso dava la possibilità all'uomo di contrastare, diciamo, le forze della natura che non sapeva come domare, perché erano più grandi di lui, e in un certo senso anche attraverso la musica poteva esprimere delle forme di comunicazione, quindi entrare in comunicazione con gli altri, dare segnali, quindi ha avuto una funzione comunicativa fin da subito molto molto importante, tanto è vero che si è protratta, è arrivata fino ai nostri giorni come una qualità umana importantissima. E quindi ci sono tantissimi aspetti che vengono toccati dal essere musica e dal fare musica. Uno di questi aspetti, che è proprio quello alla base di tutto l'essere musica e fare musica, è l'ascolto. Quindi abbiamo degli elementi, diciamo, imprescindibili, che sono l'ascolto. La musica esiste se qualcuno ascolta, quindi abbiamo una funzione relazionale importantissima. E in cosa può essere quindi rendere umani? Rende umani nel senso molto molto generale, che ci fa essere in contatto con gli altri esseri umani, ci permette di imparare ad ascoltare gli altri, di imparare a comunicare anche appunto utilizzando anche degli aspetti musicali della comunicazione, e poi spiegherò anche meglio anche in che senso la comunicazione è stata importante ed era il motivo per cui anche poi ho scritto questo libro in seguito ad un'esperienza pratica. In effetti le religioni che si fanno portatrici di messaggi dall'alba dei tempi hanno questa realtà del suono come molto importante, e ad esempio in principio era il verbo, no? Nella Bibbia, e poi anche se si pensa alla tradizione islamica, la danza, il sema dei sufi, no? Inizia con un grande colpo dato a terra, il Big Bang, quindi il primo suono, ma anche il buddismo, no? Hesse che spiega che l'om, il fiume recita l'om di tutto il genere umano, no? Perché gli animali hanno a volte delle melodie simpatiche, carine, così, però non è che fanno musica, non sanno comunicare con la musica, sono dei richiami, sono dei loro versi propri, mentre l'uomo sviluppa anche una creatività tramite la musica, quindi anche se le note, sarebbe un discorso lungo, ma sono sette, però i brani musicali sono continuamente nuovi, c'è un caleidoscopio di composizioni che ci stupisce sempre di nuovo e che ci affascina e che diventa anche un patrimonio che viene passato alle generazioni future. Sono certe musiche fanno parte dell'identità dei popoli, no? Quando Walt Disney in Fantasia, in Biancaneve e Sette Nani, mette i sette nani che ballano la tirolese, insomma, ci sentiamo un po' presi in giro, però veniamo identificati con quel ritornello lì, con quella musichetta. Così. E nel tuo lavoro di musicoterapeuta hai anche scelto dei brani che hai fatto ascoltare a dei giovani, anziché i giovani hanno scelto di ascoltare con te. Sì. Infatti voi vedete su qualche sedia ci sono anche dei testi, perché poi spiegherò meglio durante la nostra conversazione, che appunto questo libro parla soprattutto di canzoni, quindi le canzoni sono il percorso che noi abbiamo fatto fondamentalmente, rappresentano il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo scelto di fare anche qualche ascolto con voi, giusto per comunque avere la possibilità di fare esperienza almeno di tre di queste canzoni che costituiscono il nucleo del libro. In tutto sono 18. Quindi possiamo già ascoltarne. Sentiamo una. La prima? Sì. Ci sono le traduzioni? Spero di sì. Se avete un foglio con delle traduzioni, okay. Spero, perché appunto le abbiamo messe nella lingua originale, una di queste in italiano, però la prima in francese. Spero che ci sia la così si può seguire meglio. Vuoi presentarle tu brevemente? Prego. Vuoi presentarle brevemente? Sì, allora la canzone è Je te lasserai des mots. E vorrei proprio non dire nulla di particolare. La cosa intanto da sapere è che tutte le canzoni che noi ascolteremo e di cui parleremo anche più diffusamente dopo sono state scelte dai giovani con cui ho lavorato, quindi non è una mia scelta quella di fare questo ascolto, ma in realtà mi piace l'idea di poter condividere con voi quelli che sono stati poi alcuni degli ascolti che noi abbiamo fatto nel gruppo. Quindi grazie. Thank you. Forse al di là delle immagini che ricorrono, il senso lungo della canzone sta in quel embrasse-moi, abbracciami, no? Il desiderio di un contatto che porti calore ma che non stringa, quindi non stringimi a te ma abbracciami quando lo desideri, abbracciami. Questo è un desiderio di tante persone, avere un contatto fisico positivo, sereno, non invadente, e tante persone che soffrono di disturbi alimentari hanno appunto di queste resistenze perché hanno fatto esperienze negative. Quindi questa musica molto dolce, un po' struggente, punta a questo desiderio, un abbraccio, diremo casto, no? Un abbraccio che però è motivante. No? Ma, mi viene da dire, proprio a conclusione di questo pensiero molto giusto che condivido, che la musica tocca senza toccare, per questo può essere utilizzata anche nella relazione con persone che hanno difficoltà proprio nella comunicazione oppure nel rapporto col corpo o altri tipi di difficoltà, pensiamo ad esempio all'autismo, perché la musica arriva al corpo fisicamente, però è un tocco leggero, è un tocco non invasivo, è un abbraccio in un certo senso. Che va in profondità ma senza imporsi, no? Che va, raggiunge il cervello ma raggiunge anche altri sensori più emotivi e così, no? Ma vuoi spiegarci un po' meglio come funziona, quali sono gli statuti della musicoterapia? Perché si parla di musicoterapia? Si parla innanzitutto di musica, quindi la parola è composta, sappiamo che la musica ha degli effetti, perché sono provati scientificamente, quindi chi fa musica, chi ascolta musica ha dei benefici, chi ascolta musica, chi la pratica ha dei benefici che sono importanti. La musica coinvolge tutto, e unifica tutte le nostre parti, perché coinvolge il cervello, quindi la parte cognitiva, coinvolge la nostra parte emotiva, va a stimolare i nostri sentimenti, e perlomeno ad abituarci a contattare, a sentire anche di più quello che noi proviamo, e la parte fisica, perché comunque ci spinge anche al movimento, infatti sappiamo che ci viene di muoverci quando noi ascoltiamo un brano ritmico, ad esempio, no? E, è normale seguire un po' il ritmo con il nostro corpo, con dei movimenti, o il battere il piede, oppure con la danza, ancora meglio. Quindi la musica ci unifica, ha questo potere di veramente farci entrare in contatto con tutte le nostre parti, unifica la mente e unifica la parte razionale con la parte emotiva. Può anche avvicinare la persona ai suoi sentimenti, ad esempio, anche quando la persona magari è restia, come nel caso di questi disturbi, ha timore dei propri sentimenti, no? Delle proprie emozioni, perché sono percepite come troppo forti. Quindi questo è uno dei poteri proprio fondamentali della musica, ma la musica ha anche molti altri poteri, quelli che riguardano non solo io, i miei sentimenti, ma anche il noi. Quindi la condivisione favorisce l'empatia, entrare in relazione con gli altri, perché quando noi ascoltiamo una canzone come questa, struggente, ci viene comunque da essere partecipativi in un certo senso, o comunque di pensare, no? Che cosa significava per chi ha cantato, per chi ha composto questa musica. C'è una forma di comunicazione anche solo nell'ascolto e una certa qualità del noi. Ed è provato anche scientificamente che comunque attraverso attività musicali, attraverso ascolto, si favorisce il senso della cooperazione e della solidarietà, diciamo, e della coesione sociale. Questo era anche uno dei motivi per cui si è trasmesso il fare musica già dalla preistoria fino ai giorni nostri. Sono aspetti molto molto importanti. La parola terapia viene aggiunta quando praticamente la musica non viene attuata solo per fini musicali, ma per fini extra musicali. Significa incontrare attraverso una relazione musicale, naturalmente da parte di una persona formata per questo, perché chiaramente ci vuole una formazione molto specialistica, incontra, questa persona riesce a incontrare attraverso questa relazione i bisogni della persona che ha davanti e per le potenzialità che la musica ha si può interagire e cercare anche di produrre dei cambiamenti positivi. In questo senso la parola terapia è più assimilabile alla parola servizio, al servizio della persona, è un'arte al servizio della persona, è un'arte della comunicazione, favorisce la comunicazione. Si può prendere in carico la persona da molti punti di vista, quindi da un punto di vista riabilitativo, non propriamente medico, ma comunque riabilitativo di certe facoltà cognitive, da un punto di vista anche sociosanitario, diciamo, ad esempio per supportare delle malattie croniche molto debilitanti, da un punto di vista anche pedagogico per stimolare lo sviluppo in bambini che hanno delle difficoltà di sviluppo e anche da un punto di vista psicologico, perché esiste una musicoterapia di tipo più psicologico. Comunque la musicoterapia deriva da moltissime altre discipline di cui non abbiamo parlato prima, ma fanno quasi parte della domanda di prima: che cosa significa la musica nella storia dell'uomo e per l'uomo. La musica è stata argomento di tanti tipi di disciplina, psicologia. La psicologia è una delle ultime che si è interessata di musica, esiste la psicologia della musica, ma anche la filosofia. Molti filosofi hanno parlato di musica e la pedagogia, perché presso i greci la musica aveva una funzione educativa. Sappiamo che veniva usato un certo tipo di musica per produrre un certo tipo di sentimenti, quindi di indurre. Quindi si può attraverso la musica anche cercare di modulare certi stati d'animo. Ecco che diventa un potenziale questo. Quando con grande competenza e soprattutto in una relazione molto positiva di fiducia reciproca si può anche cercare di intervenire sulle emozioni o perlomeno sulla regolazione delle emozioni. Ricordo come con stupore un ragazzino quindicenne circa che balbettava quando parlava fu sottoposto non tanto a musicoterapia ma a forme di logopedia e gli hanno fatto sperimentare che quando cantava in realtà non balbettava più, andava a ritmo, teneva le note bene e così via, quindi nella musica trovava una sua certa libertà di espressione. No? Ma una domanda cattiva, la musica può far anche ammalare? Allora, sì. Siccome si parla molto nei nostri tempi della musica satanica, la musica rock, la musica troppo a volume alto e così via. Sì, non tutta la musica è positiva, cioè noi stiamo sempre un po' generalizzando sulle proprietà positive della musica, però esiste, cioè una musica può anche essere, non avere un effetto positivo. Chiaramente ci sono delle musiche, ad esempio, molto... Uno studio, ad esempio, che era stato fatto era sulla musica techno, ad esempio. Sapete, sono questi generi molto rumorosi, molto ritmici, che piacciono molto ai giovani, però si provò in quello studio che riduce ascoltare questa musica per un certo tempo, riduce i tempi di reazione, quindi molti giovani che hanno ascoltato musica in discoteca spesso hanno incidenti, non solo per le sostanze, ma anche perché comunque le loro reazioni sono molto molto diminuite, cioè una specie di... ci sono patologie che riguardano tipo dell'udito, cioè ascoltare così ad alto volume porta delle forme di sordità molto precoci. Però in generale la musica, diciamo in linea di massima, non è negativa, se non se trasmette dei messaggi negativi, allora chiaramente abbiamo i testi, ad esempio, di certi tipi di canzoni, di certi generi, e lì non dipende tanto dalla musica in sé, ma dal valore del testo, quindi dal messaggio reale, delle parole, eccetera. C'è solo un caso in cui la musica non è indicata, ed è un caso raro di epilessia musicogena, si dice, per cui esiste solo un tipo di epilessia, per cui è consigliato di non utilizzare la musica, però in linea di massima, a parte questo che è molto raro, si può sempre utilizzare. po' come l'arte in genere, che può provocare la sindrome di Stendhal, ma è un caso rarissimo anche questo. Di solito ce la gustiamo l'arte senza cadere in trance o in svenimenti, così via. Come può funzionare teoricamente la musicoterapia? Ci sono dei trattati, ci sono delle procedure, ci sono degli schemi rigidi, o è una questione, una disciplina ancora molto affidata alla diciamo così, al fiuto del musicoterapista, del musicoterapeuta? Sì, anche una domanda interessantissima, perché si vuole arrivare a una definizione scientifica di questa disciplina, no? Perché sarebbe bello che fosse riconosciuta da un punto di vista scientifico, visto che ci sono moltissimi studi che provano l'efficacia di questo tipo di terapie in tanti ambiti. Quindi gli studi ci sono, anche studi molto recenti, e adesso la ricerca è diventata molto, molto approfondita, anche da un punto di vista della valutazione, diciamo, degli interventi, no? Se non è ancora una disciplina, come ho scritto anche nel libro, evidence-based, basata sull'evidenza scientifica, e perché magari bisognerebbe applicarla nello stesso modo, in maniera standardizzata, ecco, no, con determinati campioni di persone con cui, perché poi si potesse fare anche un confronto con un altro campione. Quindi questa standardizzazione è molto difficile, perché chiaramente noi stiamo parlando di un'arte, non è una medicina che viene somministrata quindi con un certo dosaggio, è comunque un'arte che sottostà anche alle leggi umane della relazione, quindi del tipo di relazione. Se noi pensiamo ad esempio alla musica trasmessa da un impianto sonoro in un reparto come sottofondo, questa non è musicoterapia, no? Cioè proporre un tipo di musica pensando che questa farà bene è sbagliato, non è possibile. Quindi, perché la musica comunque non c'è una farmacopea musicale, non c'è una classificazione assoluta, generale, questo fa bene, può essere somministrato per tot tempo e farà sicuramente questo effetto. È impossibile. Mi è capitato di fare proprio esperienza in una struttura per persone anziane con delle difficoltà, e le veniva proposto di fare questo impianto in modo che le persone non si sentissero sole, così. Può avere qualche beneficio, per carità, però non sempre, cioè questo però comunque non è una terapia, è un accompagnamento sonoro, diciamo, può essere positivo o non positivo, magari a qualcuno potrebbe anche dare fastidio alla lunga, come a volte dà fastidio a noi avere continuamente un sottofondo musicale in certi ambienti, dove magari non si riesce a parlare perché c'è il sottofondo musicale che deve esserci per forza. Questo sì, e costringendo le persone ad alzare la voce e non potersi comprendere quando parlano, ad esempio, questo non è positivo, siamo fuori dall'ambito della terapia. Però ecco, non c'è ancora questa possibilità di standardizzazione, però siccome gli studi sono molto molto precisi nel dimostrare l'efficacia, e diciamo con certi tipi di metodologie si può arrivare, credo, a una maggiore standardizzazione, sempre tenendo conto che non esiste una musica che fa bene in assoluto e che è bella in assoluto, perché dipenderà sempre dalla singola persona e nella singola relazione, quindi è tutto molto situato nella situazione reale del rapporto. E in rapporto al soggetto, perché sì, anche le medicine hanno effetti diversi a seconda del soggetto che vengono somministrati. Ero 3 settimane fa per un primo appuntamento da un nuovo dentista dove sono andato, e quando mi sono sdraiato c'era un certo tipo di musica, diciamo standard. Dopo un po' sento che cambia e tutti i canti, Gesù, la Madonna, no, gli angeli, così via, no? E a un certo punto, dopo mezz'ora di trattamento, il dentista mi fa: abbiamo messo questo canale un po' di Međugorje, ma magari preferiva un canale rock. Dico sì, perché questa è un'anestesia supplementare, che non è che in macchina non posso ascoltare Dio Maria perché sennò mi addormento, quindi ci sono reazioni soggettive. Maria Rita ci ha portato un secondo brano musicale che è stato impiegato nel suo progetto terapeutico, suggerito da una ragazza, e lo ascoltiamo adesso, anche se non è la stagione di questi fiori, ma lo ascoltiamo lo stesso. Tulipani. Pensieri e sono tutti annodati dal buio di un giorno di sole d'agosto, nel giorno d'inverno d'agosto. Gioco coi miei pochi anni e conto i miei angeli in cielo. Forse mi fanno uno scherzo o sono alla prova, forse mi lasciano da solo. Hai preso casa in vacanza, i fiori, il riposo e i tuoi cani. Io sto annegando nel vuoto, mi bruciano gli occhi. Chissà che bellezza i tuoi tulipani. Chissà che bellezza saranno domani. Per tutte le volte che non sai se dirmi che passa o non passa mai. Tu non ci pensare e asciuga le lacrime agli occhi, oppure ricordami il tempo di un fiore che nasce da uno che muore. E stai qui. Mamma, raccolgo i pensieri in questi giorni di pace nel buio, all'ombra di un sole d'agosto, uno per uno al suo posto. E poi nei miei pochi anni conto i colpevoli in cielo. Forse mi fanno arrabbiare o sono alla prova, eppure qui non sono solo. Ho pagine ferme di un libro prezioso che gli altri hanno letto, io ho solo guardato. E mentre correvano tutti mi sono fermato in un giorno di scuola. Per tutte le volte che non sai se dirmi che passa o non passa mai. Tu non ci pensare e asciuga le lacrime agli occhi, oppure ricordami il tempo di un fiore che nasce da uno che muore. E stai qui. Regalami il tempo di un fiore che nasce da un altro che muore. E stai qui. Non è una canzone di successo, non è una canzone facile, ma è una canzone molto sincera che descrive come può esserci l'inverno d'agosto, come si può annegare nel vuoto anche se ci sono intorno tante cose belle, positive, e aiuta a capire come possono sentirsi delle persone che ci sembrano apparentemente star bene, in realtà dentro magari sono divorate da un'angoscia di vivere e così via, no? anche questa scelta da uno dei ragazzi, una delle ragazze della, sì, della musicoterapia, di questo esperimento che hai fatto, no? Vuoi raccontarci un po' più in dettaglio com'è andata questa esperienza, com'è nata, come l'hai vissuta, quali evoluzioni ci sono state in corso d'opera, sì, diciamo così? Sì, il nucleo di tutto questo racconto del libro è proprio un'esperienza pratica, quindi tutte queste premesse che abbiamo fatto teoriche in realtà nel libro sono solo accennate, e il grosso del libro, diciamo, racconta la storia di un incontro, quindi del mio incontro con queste giovani, 10 in linea di massima, diciamo in media 10-12 ragazze, e uno o due ragazzi c'erano sempre nel gruppo, che appunto purtroppo soffrono di questi tipi di disturbi. Allora è stato un incontro molto, molto coinvolgente, nel senso che comunque mi ha molto impegnata, perché anche per un motivo pratico, tecnico, che non avevo avuto particolari informazioni sulle singole persone, quindi ho dovuto veramente osservare ogni ragazza, ogni ragazzo, cercando di entrare in relazione con quello che io potevo osservare e sentire, così come, proprio come sentimento mio, che mi veniva dall'osservazione, semplicemente, non so, della postura, del tono di voce, dell'espressione, del colore del viso e appunto spesso della postura, perché appunto racconto anche di una postura chiusa che spesso avevano all'inizio del nostro incontro questi giovani. Quindi è stato molto molto coinvolgente, perché l'ho sentita fin da subito come una sfida anche. Dovevo veramente riuscire quello che desideravo, ed era anche il mio compito lì, a entrare in relazione con loro, cosa che non sembrava per niente facile, perché loro non volevano questa, non avevano nessuna voglia di avere questa relazione, nel senso che comunque la musica era anche, che loro amavano fondamentalmente. Alcuni di loro anche suonavano, alcune ragazze suonavano, alcune cantavano, quindi era presente la musica nella loro vita, però la musica era anche vissuta come pericolosa, proprio perché mette in contatto diretto con le emozioni, con queste emozioni forti che loro non volevano assolutamente sentire. Non solo, ma mette anche in contatto col corpo, fa sentire il corpo. Chiaramente quando noi ascoltiamo abbiamo proprio una vibrazione, è una cosa proprio fisica. Non, il contatto col corpo non era qualcosa che loro desideravano avere, proprio un corpo che in un certo senso maltrattavano, denutrivano, anche disprezzavano in un certo senso senza magari rendersene conto, appunto per questa, purtroppo, patologia seria che loro stavano vivendo, insomma, che stavano purtroppo, di cui stavano soffrendo. E quindi la musica effettivamente poteva essere pericolosa. Mi sono resa conto facendo tante esperienze diverse, l'esperienza in tutto è durata 6 mesi. All'inizio non era facilissimo fare loro delle cose. Piaceva molto il rilassamento, perché avevano bisogno di questo dopo appunto tanto stress che vivono, proprio per una condizione di ansia e anche di perfezionismo che vivono, per cui molte di loro volevano anche assolutamente eccellere nelle cose che facevano, in ogni aspetto della loro vita, quindi anche a scuola, e questo costava uno sforzo enorme, enorme da un punto di vista psicologico, no? E inoltre appunto poi c'era questo problema del cibo, dell'alimentarsi, e l'ora che facevano con me arrivava subito dopo l'ora del pasto, il pasto comune nella sala comune. Quindi non era stato un momento facile per loro, per niente. E quindi, ecco, ho nel libro descrivo, magari se avrete voglia di leggerlo, descrivo varie esperienze, tutte molto varie, anche appunto diverse, per cercare anche di stimolare dei cambiamenti, quindi cambiamento nella voce, ad esempio. Le voci erano flebili, quasi inudibili. Queste ragazze non avevano una voce che uscisse dal corpo. Anche la voce è un aspetto molto importante della relazione col proprio corpo, perché chiaramente se noi vogliamo farci sentire abbiamo una vibrazione e dobbiamo in un certo senso agire sulla respirazione. Per loro era proprio tutto all'interno. Anche la voce era come se fosse risucchiata all'interno del corpo. Però poi appunto il punto di svolta c'è stato fortunatamente nella comunicazione, quando abbiamo deciso, in un momento dove veramente sembrava che le cose non stessero proprio funzionando, abbiamo deciso di comune accordo, quindi nel gruppo, di fare un'attività diversa, e questa era la condivisione di canzoni. Allora, ad ogni incontro una ragazza o un ragazzo presentavano al gruppo una canzone, spiegavano prima dell'ascolto perché avevano scelto quella canzone, poi si faceva un ascolto nel gruppo, quindi un ascolto condiviso, e poi tutti gli altri del gruppo davano un feedback, una loro opinione, dicevano cosa avevano sentito, ecco, quindi veniva ridato qualcosa alla persona che aveva proposto. E questo una sola canzone per volta, di solito, una barra due al massimo, e poi per il resto del tempo facevamo comunque altre attività che da questo momento in poi hanno accettato anche più volentieri. Perché questo momento è stato fondamentale, in quanto le ragazze e i ragazzi, quando presentavano la loro canzone, si aprivano, dicevano esattamente perché, quando la ascoltavano, in quali momenti di solitudine, di demoralizzazione, di tristezza, o viceversa magari rispetto a una relazione che era finita o qualche altra vicissitudine. Comunque questa musica generalmente aveva significato qualcosa di molto importante, come un'ancora per loro. Ed è stato bellissimo fare questo ascolto condiviso, perché tutti gli altri nel gruppo hanno veramente condiviso le emozioni degli altri, di chi presentava. Quindi si è creato proprio una risonanza emotiva estremamente positiva, secondo me terapeutica, perché appunto con questo tipo di attività i giovani hanno potuto, attraverso un mezzo simbolico che è la canzone, quindi le parole del testo e il tipo di musica, ma soprattutto le parole, hanno potuto esprimere delle parti di loro che altrimenti non riuscivano ad esprimere a parole. Quindi è stato una via di mezzo, cioè diciamo un mezzo di comunicazione proprio questo, un mezzo non sentito come non pericoloso di comunicare stati d'animo loro. E quindi che hanno fatto in modo che loro potessero essere riconosciuti nelle loro emozioni, nei loro sentimenti, dagli altri, dal gruppo. Quindi c'era una coesione di gruppo, una partecipazione, un essere uniti, e c'era anche un rafforzamento del senso del sé e della loro identità, che a quell'età faceva proprio parte delle problematiche di fondo della loro patologia. Quindi avere difficoltà con questa nuova identità, la persona in crescita che non riesce a riconoscersi nella crescita e vuole diventare sempre più piccolo, diminuire, diminuire, diminuire, fino a scomparire quasi, no? Quindi soprattutto un po' persone adolescenti o post-adolescenti. Sì, tutti adolescenti. Tutti adolescenti, sì, sì. Di una fascia tipo dai primi anni, primissimi della media superiore, diciamo che in linea di massima, appunto non avevo i dati personali dei giovani, ma erano tipo dai 14 ai 18, poi c'è stato qualcuno un po' più adulto, perché poi può essere un disturbo che si protrae nel tempo, quindi non è che riguarda solo gli adolescenti, ci sono adolescenti che non guariscono e quindi rimangono comunque nel disturbo, però questo era un centro per adolescenti, quindi erano tutti proprio nel pieno della problematica della crescita, dell'accettazione di questa fase di transizione molto complessa. E probabilmente per loro che hanno disturbi nel recepire il cibo e gli stimoli esterni, quello che tu proponevi inizialmente era un po' visto come avverso, ostile, così, nel momento in cui hai chiesto di esprimersi, quindi esprimere fuori, di rendere qualcosa di sé, di profondo, si sono sentiti più liberi. Anche perché un termine che ho scoperto dal libro di Maria Rita, molti di loro erano afflitti da cherofobia. Giusto, è il titolo di una canzone che non abbiamo scelto, però sì. Se volete potete trovarla insomma su YouTube. Sì, è la paura dell'amore. Paura dell'amore, paura della felicità, no? Della felicità. Quando è un meccanismo di autopunizione, una malattia di cui io non soffro, anzi. Però ci sono persone che veramente sembra che facciano di tutto per farsi del male, no? Cercano di ricadere in certi loop negativi. Proprio questo, ho trovato questo termine, la cherofobia, no? la paura di essere felici, non concedersi di essere felici è un dramma, perché Dio ci ha creati per essere felici, dicono i teologi sani, quelli non sani che ci hanno creato per soffrire, però è una teologia sbagliata. E quindi non permettersi di essere felici vuol dire avere blocchi di crescita, blocchi relazionali, blocchi anche di autostima, di amore di sé, perché Gesù diceva: ma il prossimo tu come te stesso, se manca questo amor proprio, tutto diventa più difficile. Certo. No? Se si pensa di non meritare la felicità, significa che appunto significa che appunto non si ritiene di non meritarla, quindi c'è cioè, di fondo un sentimento di insomma di scarso valore di sé, di scarsa autostima, come appunto era, questa era una delle caratteristiche proprio di base delle ragazze e dei ragazzi, una scarsa autostima, un senso anche emerso poi appunto, perché appunto anche in maniera a volte metaforica, anche un senso di vergogna, anche di colpa a volte, no? Quindi non si merita la felicità per qualche strano meccanismo che ha convinto di non meritarla. Però tu non sei andata a studiare questi meccanismi, queste fonti malsane, diciamo, però hai cercato di operare per la guarigione, per il superamento. Forse possiamo ascoltare il terzo brano, che questo invece è di nuovo in lingua straniera. No? Sì, sì. Control. Anche il controllo era uno degli aspetti proprio fondamentali dei loro atteggiamenti verso la vita, verso la loro situazione. Control. Nothing I can do. posso condividere solo una sensazione, diciamo, all'ascolto. Ecco, questo è il potere della musica, di mettere in contatto le persone anche a distanza, perché per me, ad esempio, ascoltando queste canzoni, è come se entrassi in relazione con ancora quelle persone, in un certo senso, cioè è comunque un contatto ideale, no? Molto ideale, però si può creare questo tipo di contatto ideale, una certo, bella come cosa. Gli innamorati hanno le loro canzoni, la musica con cui si sono conosciuti, eccetera, eccetera, quindi sono dei momenti importanti di condivisione, e qui è proprio espressa la dinamica un po' schizofrenica dell'adolescente, no? Non voglio perdere il controllo, ma sento che l'ho perso, sono contento che sei qui, tienimi la mano, però sai che ti faccio male perché ti rispondo male, così c'è questa diatriba, questo altalenarsi dei sentimenti di ricerca, no? Una psicologa americana ha scritto un bellissimo libro sul rapporto con gli adolescenti, La difficile arte di ballare coi porcospini, no? I porcospini sentono freddo e si avvicinano per scaldarsi. Se si vanno troppo vicini si pungono, allora si allontanano e così via. E questa è un po' la dinamica dell'adolescente. Devi saperlo prendere nel momento giusto, nel modo giusto. Sarà sempre quando sei più stanco, quando sei più stressato e così via, che non ha bisogno, vuole riparlare, ti cercherà. Però lì bisogna essere capaci di esserci. A volte una musica può sdrammatizzare, no? Può dire, sentiamoci un brano insieme, cosa hai ascoltato, cosa ti piace, qual è il tuo cantante preferito adesso, così. Vedo su questo i giovani reagiscono molto volentieri, e con la musica, già cominciando dai bambini, se dici le cose musicalmente, con una filastrocca, con un ritornello semplice, li coinvolgi molto di più, e la favolita il pifferaio di Hamelin, che non con degli ordini, delle minacce, dei ricatti, che hanno un effetto molto più superficiale e anche meno duraturo. Sì, è una cosa che riguarda proprio, non so quanto tempo abbiamo, è una cosa che riguarda proprio il rapporto primario tra il bambino e la madre. Gli studi ci dicono che la voce cantata della madre è ascoltata molto di più della voce parlata, quindi la mamma che canta al bambino viene ascoltata molto di più, perché è naturale per il bambino cogliere gli aspetti musicali del linguaggio, e questo probabilmente si protrae anche nelle altre fasi della vita, cioè l'unione di parole e musica entra, cioè crea un tipo di comunicazione diversa dal semplice linguaggio. Basta vedere come anche i bambini piccolissimi sentono la musica e cominciano a ballare. Non gliel'ha insegnato nessuno, gli viene, tra virgolette, istintivamente, culturalmente, è quella che viene chiamata epigenetica anche, no? Non c'è soltanto la genetica, ma anche la epigenetica, che ha una sua grande importanza nella comunicazione e nell'educazione delle persone. Perché ti sei decisa a scrivere questo libro? Prego. Perché ti sei decisa a scrivere questo libro? Scusa. Perché in fondo siamo qui a presentare un libro, non a parlare di genere. Sì. Allora, è stato un modo per concludere, ecco, per concludere l'esperienza, perché comunque era conclusa da un punto di vista pratico, era finita. Poi mi rimanevano appunto lì queste 18 canzoni che avevo ascoltato con loro, che tra l'altro a me sembrano tutte belle canzoni, devo dire. Sono state per me delle scoperte, erano tutte canzoni che io non conoscevo. Quindi non è, naturalmente non era la fascia di il tipo di musica che io normalmente ascolto, ed era finito così, diciamo. Però scrivendo questo libro ho avuto modo proprio di mettere di dare una conclusione reale all'esperienza, e anche di riflettere quindi sull'esperienza, quindi anche da un punto di vista magari del pensiero ho cercato di capire di dare anche un senso un po' più riscontrabile, diciamo, nel senso obiettivo, al di là di tutti i sentimenti che possiamo aver provato, però è appunto stato uno spunto di riflessione soprattutto per me. Poi volevo dire, non so magari se posso leggere le parole, perché c'è stata una specie di evoluzione appunto nei testi, nella scelta delle canzoni, per questo io penso che ci si possa pensare che ci sia stato poi effettivamente un cambiamento, perché poi comunque c'era maggiore apertura alla fine, anche nell'espressione verbale, così. Però volevo leggere, ad esempio, se ci abbiamo tempo, una canzone che non stiamo ascoltando, però il testo, la canzone è Just the way you are. E lo sai, lo sai, lo sai, non ti chiederai mai di cambiare. Se è la perfezione che stai cercando, resta così come sei. Quindi non disturbarti nemmeno a chiedere se stai bene, perché sai bene che io direi, quando vedo il tuo volto, non c'è una cosa che vorrei cambiare, perché tu sei meravigliosa, proprio così come sei. E quando sorridi, il mondo intero si ferma e ti osserva per un po'. Ragazza, perché tu sei meravigliosa, proprio così come sei. Così come sei, così come sei. Ragazza, tu sei meravigliosa proprio così come sei. Quando vedo il tuo volto, non c'è una cosa che vorrei cambiare, perché tu sei meravigliosa, proprio così come sei. E quando sorridi, il mondo intero si ferma e ti osserva per un po'. Ragazza, perché tu sei meravigliosa proprio così come sei. 'Cause you're amazing, just the way you are. Bruno Mars, che sembra uno scanzonato, così. Io ne conoscevo 12 delle 18 canzoni che lei non conosceva, perché io, quel giovane, ci vivo in qualche modo, così via. Però leggendo il libro di Margherita le ho scoperte in un'altra profondità, cioè mi hanno fatto emergere dei significati, anche quella di Nena, così via, che non avevo recepito. Quindi è stata un po' una mistagoga, mi ha fatto scoprire una dimensione misteriosa in queste che pensavo fossero solo canzonette di come canta Bennato, scusate, e invece erano qualcosa di più profondo, e questi giovani ci hanno visto dentro qualcosa di sé, l'hanno proiettato e messo in comune, quindi hanno fatto un gesto di diciamo di nascita, no? Si sono esposti, si sono messi in pubblico, si sono messi a nudo, e questo è stato un grande intervento. E credo che questo libro a me personalmente ha fatto imparare tante cose sull'animo dei giovani, sul potere della musica, che ho sempre valorizzato anche nel mio mestiere di prete, no? Ma che va valorizzata ancora di più, perché ricordo certi episodi tipo il Field Dome, che c'è tutti gli anni a Bressanone, il Duomo, luci e colori per i giovani. Abbiamo fatto una volta una Sound Andacht a Terlano, piena così la chiesa dei giovani, che sono diventati entusiasti, no? Con dei brani, tutti di cantanti moderni, il genere che tu non ascolti normalmente, però che i giovani ascoltano e divorano. E io l'ho accompagnato con intermezzi, con brevi interventi così, e ho chiesto alla fine di fare un brano extra, Baby You Are a Firework, no? Baby You Are a Firework, che descrive alcuni ragazzini e ragazzette come dire bloccati da tante cose, una perché ha il tumore, l'altra perché è cicciotta e non si vergogna, quell'altro perché è gay e così via. E questo messaggio, tu sei un fuoco d'artificio, non sei una candela smorta, un lucignolo fumigante, così via. Questa canzone ai giovani piace perché gli dice, credi in te stesso, abbi fiducia in te stesso, e quando ti dicono stai zitto che sei ancora giovane, non capisci niente, non fai una giusta, sentirsi dire sei qualcuno, you are amazing, just the way you are, no? Bruno Mars è fondamentale, perché è qualcosa, un cardiotonico, no? Qualcosa che fa bene alla loro anima, quindi compratelo sto libro, santa miseria, compratelo, non ricevo percentuali, ma ho ricevuto un gran premio nel leggerlo, perché mi ha fatto un gran bene, e lo farò leggere ad altre persone, perché capiscano quanto la musica può essere una chiave delicata per entrare nell'intimo dei giovani, no? Ricordo quando cantavo Siamo tre piccoli porcellini al mio figlioccio che aveva 2 anni, se la godeva, mi canti quella dei tre porcellini e del lupo, così, perché la musica ti media l'esperienza, che sì c'è la paura, ma si supera la paura. E la musica affratella. Un nostro 50 anni fa, un nostro insegnante di musica alle scuole medie a Merano, il mitico Ezechiele Podavini, ci diceva, citava un autore famoso che non ricordo, il quale diceva, se vuoi conoscere l'anima di un popolo, ascolta la sua musica. Parafrasandolo e applicandolo al caso su cui ha lavorato Margherita, se vuoi conoscere l'anima dei giovani, ascolta la musica che ascoltano loro. Certe volte è una sofferenza, perché certi rapper ti fanno veramente calare il tono muscolare, non solo. E invece ci sono delle musiche dei giovani che sono carine, magari un po' ripetitive, però sulla loro musica, e se tu ti mostri interessato, anche con un piccolo sforzo, vedi che si crea quella lingua comune, common language, che non è l'inglese. Anche se i nostri giovani fanno fatica a imparare il tedesco, però tra loro si scambiano canzoni in inglese come se fossero figurine del calcio, no? Quindi forse anche noi adulti dovremmo familiarizzarci di più con questi artisti inglesi o anglofoni e così via. Sì. Un ultimo pensiero tuo? O c'è qualche domanda, qualche curiosità? Sentite in fondo? Sentite in fondo? O passo il microfono? Passo io col microfono. Prima, quando hai iniziato con questo gruppo, hai usato questo metodo della canzone che devono scegliere, ogni ragazzo doveva scegliere e motivare. Com'è che ti è venuta l'idea di approcciarti così? Perché all'inizio, quando si entra in un gruppo nuovo, è sempre voluto da una persona esterna che non è, diciamo, non è membro di questo gruppo, è sempre un impegno, no? Una fatica riuscire a trovare il canale di comunicazione. Ecco, com'è che ti è venuta questa idea della canzone e soprattutto di far scegliere ogni ragazzo la sua? Sì, l'ho un po' accennato, però praticamente ho iniziato il percorso proponendo le solite, diciamo, solite virgolette, comunque quelle attività che normalmente vengono proposte, che sono attività diverse con la musica, e qualcuna funzionava, qualcuna così così, qualcuna no. Non funzionava. Come ho detto, poi leggendo anche altri studi, ho letto chiedere di suonare a loro senza struttura, quindi improvvisando così, significa quasi la stessa o l'equivalente di chiedere di mangiare. Cioè, quindi crea un'angoscia spaventosa. Infatti, cosa era successo in alcune situazioni di improvvisazione? Che qualcuno, o anche più di una ragazza, o un ragazzo, insomma, mi dicevano: questa musica è noiosa, questa musica è brutta. La musica che loro facevano, per loro era brutta. Quindi chiaramente c'era un vissuto che non era positivo, che non riuscivano, comunque non si riusciva a uscire da questo impasse, da questo momento così. E io a un certo punto, proprio è stata una cosa veramente, in un certo momento, ho vissuto un momento di crisi personale, perché proprio personale nella relazione con loro, e l'ho detto guardate, io mi sento così, se le cose non riescono, cioè se non riusciamo, sono qua per voi, però allora lì è iniziato un dialogo, è come se si fosse aperta una porta, non lo so, è stato proprio questo aprirmi e dire, confessare, diciamo, avere questo momento di trasparenza su una difficoltà effettiva, che ha aperto anche loro, perché improvvisamente hanno iniziato tutti a fare delle proposte. Potremmo fare questo, potremmo fare quell'altro e quest'altra cosa. Hanno fatto 2 o 3 proposte e insieme, e questa della canzone mi è sembrata quella più bella, più praticabile, ed è quella che poi abbiamo messo. Quindi è stata una scelta proposta da loro, non era l'unica, l'ho scelta io con loro, però è partito anche da loro questo input. Scusa, forse è proprio stata la scelta, diciamo, l'input che è stato dato da te, mettendoti a disposizione, cioè in modo trasparente, dicendo: io provo questo. Come possiamo venirne fuori? E questa è un po' una cosa che mi ritrovo nel lavoro, ecco, questo aspetto di condivisione, sì, che esatto, nasce sempre questo. Da una disponibilità di accettare tutto. Sì, è stato ci vuole un po' di coraggio, nel senso che comunque aprirsi, ovviamente ci si mette un po' nudo su cose problematiche, no? Penso anche a un altro ambiente, un ambiente di lavoro, così. Però a volte è proprio quello che salva, cioè aprirsi e dire chiaramente quello che si prova, tante volte risolve anche, io non sapevo che avrebbe sicuramente risolto, ma è andata effettivamente così. Veramente vedendoti nella tua debolezza di non riuscire a far breccia su di loro, ti hanno trovata complice, ti hanno trovata sì. In una situazione simile alla loro, sì. Quindi la debolezza abbatte più ostacoli che non la forza, come quando se ci viene incontro un individuo nervoruto con una mazza, ci mettiamo sulle difensive, se ci arriva incontro un bambino, siamo disarmati, no? Quindi è la tua fragilità condivisa che le ha aiutate a aprirsi per riconoscere le loro fragilità. Certo, ed era anche, se vogliamo vederlo adesso a posteriori, è stato anche un momento di empatia da parte loro, perché loro erano capaci di empatizzare, solo che magari in altri momenti e tutto il tempo precedente non lo volevano fare, semplicemente erano molto chiusi, no? Molto protetti nella loro angoscia. Volevo dire due parole sul titolo. Sì. Sì? O volevi forse intervenire? Cioè, il perché di questo titolo penso che sia stato toccato, diciamo, nel nostro questo cibo simbolico reale, come mi ha insegnato Don Paolo. Musica come simbolo, ma simbolo reale, perché viene effettivamente percepita, non è solo un simbolo ideale, visivo, esatto. Allora, solo due parole. L'amore è ciò che cura. La musica, che è essenzialmente relazione, può rappresentare una base sicura e l'amore primario che forse non abbiamo avuto a sufficienza nelle fasi più precoci e più importanti della nostra vita. E poi l'ultimo pensiero, un pensiero di Thomas Eliot, finché essa dura, voi stessi siete la musica. Questa è una frase dai quattro quartetti di Eliot. Se non ci sono altri interventi, direi di concludere con un applauso a Maria Rita per il lavoro che ha svolto, per il libro che ha prodotto e per quello che farà ancora entusiasmando tanti e aiutandoli con la musica. Grazie Maria Rita.